24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Siamo qui a ripartire con una settimana di 24 mattino. Ci siamo. Eccoci alle 6:33 minuti. Miriam Lucchetti è in pole position, là in postazione, in redazione, insieme all'alpino Peter Bescapè, il nostro grande alpino che ci regala il mantra anche per questa settimana. È così, eh? But please relax. Rilassatevi tutti, tanto è già tutto deciso. Questo almeno nelle prospettive di Mario Monti, chissà. È già tutto deciso cosa, ma per il futuro. Saluto Alberto Forchielli, buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte. Dove lo troviamo oggi il nostro Alberto Forchielli? Sono a Pechino. Ah, nel cuore bellissima del giornata di sole. Nel cuore del potere comunista. No, di comunista non c'è più nulla, no? C'è più nulla. Nome. Che ore sono lì a Pechino, Forchielli? Sono le 13:35. 6 ore avanti. Vabbè, facile così, facile. Vabbè, saluto anche Bimbo Alieno, buongiorno e ben ritrovato. Eccoci qua, il nostro. Buongiorno a tutti. Allora, qui sono le 6:35. Lì sono le 6:35, qui sono le 6:34. E il nostro analista finanziario Alberto Forchielli, che è presidente dell'Osservatorio Asia. Io dico, è tutto deciso, è il sogno di Forchielli avere Monti per 30-40 anni, eterna Monti, no? Sa Monti dov'è in questo momento, Forchielli? No, dov'è? È sta andando in Qatar, ieri era dove? In Kuwait. Ecco, sentite, purtroppo non c'è l'audio, ma che cosa ha detto? Ha fatto una domanda, è andato lì per vendere l'Italia, no? Nel senso, vendere in senso positivo, cioè dire guardate che in questo momento in Italia ci sono degli asset che si possono comprare, tra poco Bimbo Alieno ci dirà quali, e ha aggiunto a una domanda, sì ma lei cosa può garantire per il futuro? E Monti ha detto, io per il futuro non posso garantire nulla, Forchielli, come dire? Madonna. Finché ci sono io, bene. Per il futuro, io non posso mica garantire il futuro. Questo ha detto. Ah, è così, eh? È così. Sì, adesso all'estero sono tutti pietrificati aspettando il dopo Monti. Perché l'incertezza del dopo Monti pesa. Perché Monti all'estero piace. Poco da fare. È per quello ho detto si avvera il sogno di Forchielli, avere Monti. Cioè è un po' una frase come dire, finché tenete me io posso garantire. E poi se non volete ritornare ai vecchi partiti, alla vecchia politica, fate vobis, no? Questo ha detto. Sì, ricordiamoci che la vecchia politica è inguardabile vista dall'estero. Quando venivano i nostri sottosegretari, ministri qui in visita in Cina, che erano i ragazzi dell'ambasciata, che quando chiamavano i corrispondenti cinesi erano imbarazzati, capito? Non potevano più i cinesi di averli, capito? Erano imbarazzati. Poi arrivavano, dopo 6 mesi cambiavano, capito? Si dimenticavano le carte, chiacchiere. Cioè, voglio dire, cioè, purtroppo che vi piaccia o che non vi piaccia, visto dall'estero. Monti. È una roba che. C'è del marketing in Monti. Manca della sostanza del paese, poi, Quando poi uno gratta, non è che ci sia poi tanto da comprare, capito? Però. È così. Ma tra l'altro, tra poco sentiamo una piccola frase che ha detto Monti prima. Vabbè, qua nessuno si accorge, ma non abbiamo ancora aperto il bar. Siamo in strada praticamente, che sul marciapiede Nicole Minetti neanche ci ha offerto il caffè. Insomma, un disastro. Ecco, a tutti quanti. Allora, Bimbo Alieno, prima di sentire Monti, anzi no, sentiamolo subito Monti, perché era credo alla Bocconi, no? Sabato c'è stato anche qualche scontro e ha detto questa frasina così, no? Sentite. Nessuno mi domanda impegni oggi e oggi non do nessun impegno. Oggi non do nessun impegno. Allora, intanto, bimbo alieno, che, visto che si parla molto di asset da vendere, che cosa, cioè quanti soldi, che soldi hanno, immagino tanti, da quelle parti, e perché si dice si va lì per, tra virgolette, offrire in Italia? Che cosa si può offrire agli emiri del Qatar? Boh, essenzialmente direi il nostro debito, nel senso che oggi il rendimento dei BTP, come sappiamo, è molto più alto di quello di un Bund, e quindi rassicurare gli investitori in petrodollari che i nostri BTP verranno onorati è un ottimo invito a dire mettete i vostri soldi a reddito, no? Perché comunque ne otterrete un beneficio, un rendimento molto superiore ai titoli considerati più sicuri. Pronto? Sì, sì, ci siamo, Forchielli, sentiamo. Grazie, sì. No, stava dicendo bimbo alieno cosa possiamo offrire, agli sceicchi, insomma, del Qatar. Però bimbo alieno, questa frase a dire, insomma, con me è tutto tranquillo, senza di me chi lo sa cosa succede. Ma guarda che gli italiani dovrebbero essere contenti, perché l'immagine che abbiamo, ma è certo, perché l'immagine che abbiamo all'estero è quella che non siano gli italiani il problema, ma la classe politica che per 30 anni ha governato in modo allegro. Ho capito, ma uno investe in Italia, cioè uno che deve mettere miliardi investe certo, in Italia. Se lui avesse detto chiunque vinca, non temete, non c'è problema, avrebbe dato torto alla teoria secondo la quale c'è una classe politica da cui bisogna guardarsi. Allora forse il problema sono gli italiani. Invece lui ha detto, giustamente, non poteva dire chiunque vinca, anche perché secondo me più che con la vecchia politica, forse è con la nuova politica di un movimento in particolare, no? Che mette, come dire, in programma probabilmente anche l'uscita dall'euro con, senza magari spiegare la conseguenza, che sarebbe il fallimento del paese. E quindi come così. Dire, lui alla comunità internazionale non può dire chiunque vinca, non preoccupatevi, eccetera, perché... Sì. No, ma questo è chiaro. C'è sempre questo piccolo particolare del voto, Forchielli, del voto attraverso cui si deve passare. Ma sa chi ha fornito una bella sponda nel weekend a Mario Monti? Visto che lei è a Pechino, magari sì. Non... Luca Cordero di Montezemolo, che ha fatto questo weekend una convention verso la Terza Repubblica. Sentite cosa ha detto Montezemolo, l'ha detto chiaramente, cioè proprio noi dobbiamo dare quell'istituzione democratica, cioè il voto, al governo Monti. Quello che ci proponiamo di fare è dare fondamento democratico ed elettorale al percorso iniziato dal suo governo. E lo vorrei ripetere, fondamento democratico ed elettorale al percorso iniziato dal suo governo perché possa proseguire, rafforzarsi nella prossima legislatura. Questo è quello su cui vogliamo lavorare. Ecco qui, Forchielli. Allora, cioè, traducendo, Montezemolo dice noi con il movimento che si creerà prenderemo i voti, voglio dire, no? I voti, quelli che servono per poter dire noi poi contiamo e puntiamo su Monti Premier. Può essere un'idea questa, la nuova politica, ex imprenditore, presidente di Confindustria che si butta in politica? Vabbè, no, lui... Questo non è buttarsi in politica, questo è un po' trovare un modo per rifugiarsi e trovare un angolino, perché poi Montezemolo ha capito che non è uomo da battaglia politica, capito? Non è un uomo che lascia gli incarichi per buttarsi nella campagna politica. L'alternativa, l'alternativa è rafforzare un centro laico, capito? Sì. Le confesso che sono ovviamente siamo tutti anche preoccupati, perché se dovesse meglio un centro laico che un non governo, oppure, come già ho detto altre volte, un paese troppo condizionato dalla CGIL. Ah, ricordiamoci, ragazzi. Ragazzi, ma detta da Pechino, lavoro è stato... Ma come? Ragazzi, no, l'accordo sul lavoro è stata una porcheria. Quello ce l'ha su dalla scorsa settimana, sto accordo sul lavoro. Perché, ragazzi, ma ci vuole per investire in Italia, ci vuole il coraggio da leone, capito? Sì. Non investe in Italia sull'Italia, uno può investire in Italia su qualche imprenditore. E allora su cosa investe? Si investe su Monti, cioè perché c'è Monti, abbiamo un bel biglietto da visita all'estero. Ma guardi, gli asset, le banche non le vogliono vendere, forse non le vogliono neanche loro. L'unica cosa vendibile sono l'ENI e l'ENEL, che però politicamente sono impossibili da vendere. Il resto nessuno vuole niente, capito? Com'era, siamo e poi ci sono delle aziende medie che vendono la maggior parte del fatturato all'estero, e quelle vanno indipendentemente da Monti, capito? Sì. Certo, quelle anche se noi uscissimo dall'euro con una lira svalutata valgono ancora di più, perché venderebbero ancora di più. Però se io Monti oggi Monti, la gente se ne frega. Alessandro, ma non possiamo trovare una quadra in tutto questo, dire che Monti va al Quirinale, dove... Ma sì, facciamolo, qui sono le 6.43 di mattino, oppure le 13.43, Monti al Quirinale, va bene, è risolto tutto, no? E poi che risolviamo? Cioè, ma io dico, ma sono giorni in cui, i giornali parlano delle elezioni, dell'election day, di come tutto il percorso istituzionale, mettono le caselle, Monti al Quirinale, ma la gente non gliene frega niente di queste cose, secondo me non gliene frega niente, no bimbolino, non gliene frega niente se si vota a marzo insieme, se mettiamo Monti al Quirinale. Alla gente interessa se ci sono i posti di lavoro, se c'è qualcuno che dà i posti di lavoro, se c'è qualcuno che può aumentare il salario medio, se c'è qualcuno che può darci una chiarezza su l'IMU, rimane, si toglie, rimette, questo interessa. Poi mettano Monti al Quirinale, mettano un altro al Quirinale, mettano un altro in politica, si facciano le cose normali. Certamente, però insomma tutto questo, quello che tu hai elencato, succede se c'è un contesto salutare all'interno della all'interno del paese e all'esterno del paese, cioè l'immagine che l'Italia all'estero, lo dicevamo poco fa per il discorso in Kuwait, è necessaria affinché il nostro debito sia sostenibile, altrimenti ce lo compriamo noi, ci sono ancora 700 miliardi di debito in giro per il mondo. Sono su 60 milioni di abitanti circa 12 mila euro a testa. La tua famiglia di quante persone è composta? 4. Cosa vuoi? Fuori 48 mila euro. Ti cosa vuoi che sia? Il debito pubblico estero. E via. Cosa vuoi che sia di sti tempi? No, ma il mio sfogo era perché nel weekend, sabato, è successo questo. Ho preso in mano il Corriere della Sera. Parlavano di scenari, voto a marzo, eccetera. Paginate, chili di piombo. A un certo punto mi è scivolato il Corriere della Sera, mi è caduto sul piede, mi ha spaccato tre dita da quanto era pesante. Ecco, questo è il livello dei giornali, il racconto di questi giorni. Buongiorno direttore. Dopo la serranda del barco Laminetti, che è molto simpatico tutto, non sarebbe il caso di ricordare ai nostri cari politici che dovevano diminuire il numero dei parlamentari? A quando? Io dico mai. Questo dei vitalizi è l'ennesimo schifo. I partiti se ne devono andare, questa è la conferma che i partiti fanno schifo. Lo so Alessandro, perché in Argentina adesso è pieno di corrotte, lo sai perché? Perché siamo tutti figli di italiani, Alessandro! Io qualcosa di storia so che Hitler ha preso il potere a 44, Göring aveva 40 anni, Himmler 33, Goebbels 36, Napoleone 30, Churchill quasi 60... Siamo cauti, per piacere, non tutto quello che brilla è oro. Di Pietro è stato a tutte le trasmissioni televisive per denunciare la pagliuzza degli altri e non si guarda la sua, che è come una trave. Ah, ah, ah. Ciao Alessandro, complimenti per la trasmissione, mi viene già da ridere, vorrei chiedere scusa a Schettino, se lo merita, grazie di tutto, ciao. Vabbè, Schettino che ha fatto l'intervista, questa forse Forchielli se l'è persa, il comandante Schettino, no. Sa chi è Forchielli? Schettino, anche girando tra America e Cina, Hong Kong, ha fatto un'intervista 2 giorni fa, ha detto mi dovrete chiedere scusa a tutti. tutti un giorno mi dovrete chiedere scusa, tutti, per come è andata e non è andata come tutti pensiamo. Questo almeno sostiene lui. Avete sentito, abbiamo anche quella, praticamente la parente di Tremonti, che dice che Hitler è andato al potere da giovane, quindi occhio ai giovani, no? Con Goebbels, Göring, eccetera. E quello che ci dice che gli argentini sono tutti corrotti perché sono figli degli italiani, ma ormai è così. Siamo feccia, diceva Forchielli, no? Con grande stima del popolo italiano, siamo feccia quando andiamo all'estero, e questo così ci considerano. Io volevo farvi sentire che cosa avete seguite almeno le primarie. Vendola è convinto di vincere, sentite cosa ha detto la Lucia Annunziata ieri. Io sono convinto che domenica prossima ci sarà una grande sorpresa nelle urne. Credo che questa bolla mediatica, che è stata costruita anche con molta malizia, rappresentando il duello come un confronto tra Bersani e Renzi, verrà probabilmente frantumata da coloro che effettivamente andranno a votare. Penso che i sondaggi non possano sondare quel mondo inquieto che è il popolo del centro-sinistra. E qual è la sorpresa? La sorpresa sarò io nelle urne di domenica. Ecco, alla fine, dopo tutto questo preambolo vendoliano, i sondaggi non possono sondare, bimbo alieno, la sorpresa sono io, cioè vincerò io. Questo, c'è interesse? Stai seguendo quello che succede? No, la storia depone a favore di questa teoria. Lui le primarie ogni volta che le ha fatte non era mai dato per favorito, le ha sempre vinte. Ma dai, ma vince Bersani al primo turno, abbastanza. Questo almeno, sapete chi ha in mano il sondaggio che dice Bersani vince al primo turno? Sapete chi ha in mano questo sondaggio? Silvio Berlusconi. Ah, i giornali raccontano così, che Silvio Berlusconi... Cosa stai dicendo? No. No, è così, presidente. Alessandro, non insinuare cose riguardanti la comunicazione e i sondaggi, perché questo è un comportamento indegno, Cribbio. Vabbè, però è così, presidente. Io lo dico come dicono i giornali. Tra l'altro, Forchielli, qua c'è da dire, sì. Le primarie le segue almeno il centro-sinistra. Sì, li vendo la Bersani. Sì, anch'io penso che alla fine mandino la gente a votare Bersani, c'è tutto uno zoccolo. Cosa vuol dire mandino chi li manda? Uè. Ma perché è lì nella mia zona, ossia c'è un bel elettorato, ossia lì tiene Bersani. L'Emilia Rossa. Lo so di Imola, hai capito? Lì vabbè, a Imola, chi se ne frega? Vabbè, chi se ne frega? Si vota in tutta Italia. C'è tutto un bel bacino sulle primarie lì, capito? Lì prendono l'ordine, via. Capito? Ancora... Cioè, proprio militarmente marciano su. Proprio marciano verso i seggi. Sì. Marciano verso i gazebo, sì. No? Con... Vabbè. Sì. Beh, poi però c'è Firenze. A Firenze vincerà Renzi, boh, chi lo sa. A Firenze, Forchielli. Sì, ma votano in meno a Firenze. Ah, beh, certo. Sono meno, Si tenga presente. No, chiaro, sì. Certo. Mentre lì tutti i soldatini di Imola prendono... Ma che è? No, Imola, c'è Bologna, Modena, oh, cioè, finale mia, voglia. Basta, vabbè, ma allora sospendiamo, oltre che il voto di aprile, anche le primarie, no? Non facciamo manco quelle, no? No, vabbè, cioè... ma è un pronostico, però mi sembra che in fondo la struttura del partito sia ben allineata su Bersani. Sì. E dall'altra parte invece no, lo dico non perché ritorni presidente Berlusconi, nel senso qui a 24 mattino, però quest'altra frase che ho letto è questa: o Berlusconi o mi ricandido o vado in Kenya. Questa pare che sia che messa così, non so quanti italiani optino per la prima opportunità o per la seconda, non so. Bimbo alieno ride. Perché ridi? Tu per quale opteresti? Guarda, io opterei sicuramente per il Kenya, me ne sarei rilasciato, però purtroppo forse mi devo prendere un'altra volta l'impegno verso questo paese, un impegno che prendo solo per amore per il paese e per gli italiani. Allora, adesso vediamo un pochettino queste primarie come del PDL, come si strutturano. Il primario del PDL. L'importante è che si mantenga la regola aurea all'interno del PDL, che ciascuno è libero di esprimere le mie opinioni. Dopodiché, detto questo... Vabbè, dopodiché forse sarà Kenya, chi lo sa.

Con noi c'è uno che è identificato come uno dei possibili uomini nuovi della politica che sta arrivando con le nuove elezioni. Si tratta dell'avvocato, imprenditore, banchiere Giampiero Samorì, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, grazie dell'invito. Senta Samorì, lei ha fatto questa convention 2 giorni moderati italiani in rivoluzione. Le devo chiedere però conto di alcuni articoli di giornali usciti oggi, uno sul Corriere della Sera, non so se l'ha già visto, a firma Mario Gerevini, e si parla, il titolo è questo: gli affari di Samorì tra San Marino e Curaçao. Curaçao, sì, glielo dico, Curaçao è un paradiso fiscale. Si parla di Modena Capitale, che sarebbe controllata, cioè Modena Capitale attraverso la quale lei opera, sarebbe controllata dalla Zevenplint con sede a Curaçao. Lei ha rapporti con i paradisi fiscali di Curaçao? Guardi, io non ho nessun rapporto che non sia più che regolare. Posso, mi fa molto piacere questa domanda. Adesso non ho letto il Corriere, avrei magari lo leggerò. Tutte le mie società in tutte le parti del mondo sono dichiarate nel quadro RW. Sì. Quindi sono da 10 anni a conoscenza di tutte le autorità italiane, le quali, dopo averle tutte esaminate, eccetera, eccetera, in più occasioni mi hanno autorizzato, tanto Banca d'Italia e ISVAP, all'acquisizione di quote di maggioranza di compagnie bancarie o di compagnie di assicurazione o di società bancarie, proprio perché sono totalmente trasparenti. Quindi io non ho una posizione in tutto il mondo che non sia fiscalmente perfetta, non ho mai evaso un euro in vita mia, sì, non ho mai commesso reati in vita mia, quindi le cose che dice Corriere, che non ho letto nel dettaglio, no, ma certo, ma scritte è chiaro, le domande, guardi, visto glielo dico indietro, le domande che pone il Corriere è questa, gliela pongo anch'io: dietro la Zevenplint, cioè il maggior azionista di Modena Capitale, c'è lei? Questo si chiede, ma il Corriere. Guardi, sì. Secondariamente, se io sono pronto a farle vedere la mia dichiarazione di reddito, vedrà che le mie partecipazioni italiane ed estere, tutte, sono da 12 anni dichiarate nel quadro RW all'evidenza di tutte le autorità tributarie, bancarie. E io non ho mai ricevuto per nessuna mia attività neanche un rilievo di un euro. Sì, sì, no, ma questo ci ha già detto. Però, non so cosa poter no, no, dire. No, le richiedo, però, siccome la sua prima risposta è stata: cioè, lei ha rapporto, ha qualche società in sede a Curaçao? Ho società in varie parti del mondo, tra cui anche Curaçao. Come tutti quelli che hanno delle attività economiche diversificate. Tutte le mie attività sono in trasparenza fiscale. Sì. Ovviamente, non credo che. No, però glielo chi c'è. Da parte, no, ma scusi, da parte mia dire tutto quelli che sono. No, chiaro, cose, dove? Certo. Non ha neanche. Quello che secondo me interessa alla gente, e deve interessare anche ai media, ed è probabilmente stato scritto male con un intento, diciamo, non troppo lusinghiero nei miei confronti, è essere assolutamente certi che tutte le mie attività economiche sono in chiaro. Sono sempre state dichiarate nelle dichiarazioni dei redditi, con le imposte tutte pagate senza mai un euro di evasione. Mi sembra che quello sia il punto, poi sì, posso venirle a dire a lei. No, chiaro, dove ha le sedi, cose, ma è un ma secondo lei, e visto che se ne è parlato tanto di finanza creativa, di paradisi fiscali, no, anche... non c'è nessuna attività mia che abbia un regime fiscale da paradiso fiscale, se no non sarebbero tutte dichiarate e tutto in evidenza nel quadro. No, chiaro, perché anche ha seguito anche nel centro-sinistra la polemica di Davide Serra, eccetera. No, ripeto, io non ho nessuna attività, per attività intendesi svolgimento di operazioni, di esercizio di imprese, eccetera, eccetera. Ho una serie di società in Italia e anche all'estero che sono proprietarie di beni, quindi non svolgono attività, sì, e che sono tutte dichiarate al fisco italiano, sulle quali io pago tutte le imposte di ogni generatore senza nessun vantaggio fiscale, semplicemente per il fatto che trattandosi di proprietà in nazioni estere, sono intestate a società estere della nazione. Senta, le chiedo venendo all'aspetto, sì, all'aspetto politico, sì, dica. Ecco, no, poi scusi, mi diceva anche una cosa di San Marino. Che non sì, lei è vero, questo gli avrei chiesto adesso, è vero che lei è ambasciatore di San Marino, ambasciatore a Parigi per San Marino? Sì, dunque, io ero ambasciatore di San Marino fino a una settimana fa, quando entrando in campo la mia convinzione politica, ho deciso di rassegnare le dimissioni per un semplice motivo che mi sembrava incompatibile, incoerente. Diciamo. Quindi ha rassegnato le dimissioni, non è più ambasciatore. Ma la nomina, no, la nomina che è una nomina onorifica, dipende dal fatto che la Repubblica di San Marino individua quasi tutti i magistrati e buona parte dei diplomatici nei professori universitari di Urbino, per una consuetudine antichissima, secolare. Siccome io sono professore dell'Università di Urbino, mi è stato chiesto 2 anni fa se accettavo di assumere questa carica onorifica e ho detto di sì. Con l'occasione, intendo precisare, così anche il Corriere magari può prenderne nota, che io a San Marino non ho né un conto corrente, lei sa che sono uscite le famose liste Tessina. Sì, sì, sì, certo, no, certo. Né un conto corrente, né un'attività, né una sua, non ho nulla. Insomma, ho questo incarico onorifico, punto. Quindi se il titolo del Corriere, quello che mi ha detto, è un po' sgarbato, cioè la risia, siccome, vede. Poi lo leggerà l'articolo e vedrà se noterà qualche... in campo e prende posizioni forti contro le banche, le fondazioni, cioè, però io sono tranquillo perché vedete che non ho fatto nulla, quindi possono andare a scavare indietro di 30 anni che non trovano nulla. Perché lei perché scende in politica? Cosa vorrebbe? Lei è un po' un rottamatore del centrodestra, qualcuno l'ha definito così. Ma è sbagliata anche la definizione. Il concetto di rottamazione è un concetto di natura punitiva, cioè sembra che uno dica siccome siete tutti di mascazzoni, adesso arrivo io che sono per bene, sono più giovane e vi metto tutti da parte. No? E che ci sia bisogno di un profondo rinnovamento generazionale e qualitativo nel mondo del centrodestra mi sembra innegabile, insomma, bisognerebbe essere ciechi per non vederlo. Quindi chiunque voglia cercare di recuperare dei consensi nell'area moderata dovrà necessariamente anche darsi carico, oltre che sul piano programmatico, di un rinnovamento abbastanza significativo della classe dirigente, perché se dovessero tutti quanti riproporsi immagino che il risultato elettorale non sarebbe esaltante, punto. Ma soprattutto perché quando le persone da troppi anni occupano gli stessi ruoli di potere e questo produce una conseguenza molto negativa. Ma a chi pensa soprattutto? Quelli che da 20 anni stanno in Parlamento, insomma, che in questo vede che è un po' renziano, in questo almeno. No, scusi, però Renzi fa una questione generazionale, solo io faccio una questione molto più articolata, che è di qualità e di età. Cioè dico, tutte le generazioni hanno diritto a poter esprimere le loro eccellenze in politica. Se ci sono persone che per troppi anni rimangono all'interno del Parlamento, bloccano le eccellenze delle generazioni precedenti. Sì. Ma non è solo quello, è che tutte le generazioni esprimono delle particolari sensibilità. Quindi io non so quanti anni lei abbia, ma io che ne ho 55, quando con me si parla di infrastrutture, io penso, non so, ai treni, alle ferrovie, alle strade, alle autostrade. Ecco, se ne parlo con mia figlia già o con un ragazzo che pensa alla banda larga, internet. Vabbè, chiaro. È la somma di queste sensibilità che deve essere tenuta presente per arrivare a una società equilibrata. Io ne ho un po' meno, comunque. Ne ho un po' meno, ne ho 42. Allora lei è borderline. Né banda larga né ferrovie. So. Però capisce cosa voglio dire. Sì, questo sicuramente. Stringiamo troppo le possibilità di accesso. Abbiamo poi anche dei gruppi dirigenti che sono troppo omologati su determinati. Però le faccio questa domanda. Lei si è candidato alle primarie del centrodestra, ma le primarie, come si sa, per esempio a Berlusconi non piacciono. Ma servono o no queste primarie? Ma guardi, una volta che il presidente Berlusconi ha deciso di non ricandidarsi e comunque di non svolgere il ruolo di traghettatore, diventava quasi impossibile, cioè il bisogno di una qualche forma di legittimazione della classe dirigente dell'area moderata andava individuata, potevano essere le primarie lo strumento più giusto, ma qualcosa bisogna fare. Il segretario Alfano è stato sostanzialmente nominato per acclamazione, la struttura del partito è datata, i dati elettorali sono disastrosi, ecco, bisognerà pure ridiscutere di programmi. Dice così non va bene, non si può fare per acclamazione una... Stato nelle democrazie moderne. Mannaggia, Alfano fascista, no, addirittura no. Alfano fascista addirittura no. No, come metodo. Uno può in un momento per 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi reggere un ruolo perché è stato acclamato, ma in funzione di una riorganizzazione di una struttura di un partito, ma non è che uno possa arrivare alle elezioni acclamato 2 anni prima senza nessun tipo questo di... Sì. Quindi uno strumento ci vorrà. Mi dica una cosa, siccome abbiamo 2 minuti, su cosa farebbe lei come prima mossa Presidente del Consiglio Samori per abbattere il debito pubblico? Ah, io farei 4 cose tutte insieme. Prenderei con legge e con i trattamenti e con gli accordi necessari anche con l'Unione Europea, quindi non con i carabinieri e non armati, prenderei tutte le riserve disponibili della Banca d'Italia, acquisirei a patrimonio pubblico tutti i patrimoni delle fondazioni bancarie e non bancarie, introdurrei una patrimoniale ragionevole per tutti quelli che hanno un patrimonio superiore ai 10 milioni di euro e contemporaneamente ridurrei immediatamente le tasse, cioè le imposte dirette sulle imprese, per lo meno di 10 punti per le classi meno agiate. Beh, questo è un annuncio, cioè è un annuncio un po', come dire, roboante, voglio dire, no? A parte che i primi due mi suonano un po' come degli espropri, dice, non come i carabinieri, ma perché vuol prendere tutti i soldi alle fondazioni bancarie? Perché li vado a prendere dove ci sono, devo prenderli a chi prende 500 euro di pensione? No, questo sì, ma uno li va a mettere alla fame le persone. No, certo, ma li va a prendere in nome di che, in nome di che cosa? Uno li va a prendere in nome dell'interesse dello Stato, quindi questi sono corpi che partecipano dello Stato in quanto tale, non sono soggetti privati che hanno guadagnato questi soldi lavorando magari come fa lei con il suo stipendio, con i suoi redditi. Quindi uno in questo momento assolutamente straordinario, dove dobbiamo necessariamente abbattere il debito pubblico per poter provare a fare sviluppo, cioè uno cerca di utilizzare tutte le aree di ricchezza che si ricevono. D'altra parte, scusi, lo Stato ha deciso di cambiare il sistema previdenziale per la pensione dei dipendenti, cosa ha fatto? Ha fatto una scelta politica. Sono contenti quelli che gli hanno tolto il diritto di andare in pensione? No, però lo Stato ha deciso che in questo momento non si poteva più accettare di andare avanti con le regole di pensione. Allora, no, questo staremo a vedere. Io un'ultima domanda. Ieri alla convention, anche questo raccontano oggi questi disgraziati di giornalisti, caro Samori, c'erano anche degli anziani, 3 pullman di anziani che ha detto, ma noi ci avevano detto che facevamo una gita. E no, sono già state definite le truppe cammellate portate alla convention di Samori. Purtroppo cosa succede in Italia? Che il livello del dibattito ha tendenza talmente ad abbassarsi che anche la stampa guarda con più attenzione alla pagliuzza che non alla... Ma io gli ho fatto come ultima domanda, però è interessante capire se... c'erano più di 6.000, quasi 7.000 persone, abbiamo distribuito 5.000 panini. 5.000 poi panini. Ne avremmo avuto bisogno di altri 3.000, quindi vuol dire che c'erano circa 7.000 strumenti. Sì. Siccome questa è un'organizzazione abbastanza, diciamo così, rapida, che è stata fatta, perché è un mesetto che noi stiamo lavorando su questo nostro movimento, io non escludo affatto che qualcuno da qualche area periferica, pur di far vedere che era in grado di avere consenso, abbia magari favorito la partecipazione di qualche persona. Cioè ha portato qualche persona magari dicendo andiamo a fare una gita e si sono... Assolutamente, è una cosa assolutamente... Quello che però, non so perché non letto, non mi sembra che sarebbe stato forse più importante evidenziare, sono le migliaia di persone costantemente presenti dentro i 3 stand. No, questo sì, no, ma lei sta muovendo tanto di interesse, questo sì, no. Gli applausi ricevuti e il livello di partecipazione della gente, quello forse era l'elemento più importante. Dice, questi 3 pullman sono magari una leggerezza di qualcuno. Sì, non certo mia, ma sicuramente, ammesso che sia così, perché non so, ero dentro, quindi non so se sono fuori, però la possibilità di portare, cioè la disponibilità di 7-8.000 persone a stare 2 giorni a Chianciano, a seguire i lavori di un movimento nuovo, eccetera, eccetera, questo mi pare che sia un dato di partecipazione. Ma questo sicuramente sì. Guardi, io le faccio in bocca al lupo e legga bene l'articolo del Corriere, ovviamente, perché ci sarà immagino da replicare, da parte sua io l'ho riassunto. Sapete che non devo replicare? Sono totalmente inattaccabile, non ho mai evaso 1 euro in vita mia di imposte, non ho mai commesso un reato, non ho bisogno di 1 euro di fidi da nessuna banca. Perfetto. Forse proprio per questo posso permettermi di dire quello che penso e proprio per questo si cercano qua e là degli argomenti così vagamente dal sapore diffamante, perché non c'è niente. Intanto io la ringrazio, buona giornata, grazie per essere stato con noi Gianpiero Samori, che è avvocato, docente universitario, imprenditore, banchiere e che per qualcuno può essere l'uomo nuovo del centrodestra. I vitalizi nelle regioni, i vitalizi per Fiorito, la Minetti, c'è una polemica in corso su questo. Allora, qualche giorno fa, vi ricordate, si diceva i vitalizi, basta i casi Fiorito, basta i casi Nicole Minetti, tanto per citare alcuni casi, cioè consiglieri regionali che prendono il vitalizio. E così il il governo ha fatto un decreto ai nostri microfoni, anche il sottosegretario Polillo a mia domanda precisa ha detto: ma allora Fiorito, la Minetti prenderanno più il vitalizio? No, assolutamente no, c'è il decreto del governo che stabilisce che bisogna aver fatto 10 anni di consigliatura regionale e avere 66 anni, quindi assolutamente il decreto è già in vigore, a meno che in Parlamento non succeda niente. Sergio Rizzo, che saluto, buongiorno Sergio Rizzo del Corriere della Sera, ha scritto venerdì: quel qualcosa è successo in Parlamento, cioè hanno aggiunto una riga, una frase in un articolo. La frase è questa: le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito già i vitalizi, e siccome molte regioni lo hanno già fatto per il futuro, allora per tutte le regioni in pratica questo decreto non si applica. So però, Sergio Rizzo, e saluto l'onorevole Chiara Moroni di Future Libertà. Buongiorno onorevole Moroni, grazie per essere con noi, perché lei è uno dei due relatori di quel provvedimento messo in discussione da Sergio Rizzo. Io l'ho sentita nel fine settimana l'onorevole Moroni che dice: non se ne può più, noi non abbiamo fatto nulla di male, non vogliamo passare per quelli che hanno salvato i vitalizi ai consiglieri regionali, è il governo che ha sbagliato tutto con questo decreto, mi pare di aver capito così onorevole Moroni. Perché lei contesta il fatto che Sergio Rizzo scrive, anche altri giornalisti hanno scritto, gli hanno salvato la ghirba, insomma, ancora una volta? Sono contento perché non è vero, perché poi si può discutere. Eccolo là, il cellulare ci aiuta tantissimo, no? Il cellulare che... Sergio Rizzo, allora partiamo dalla parte giornalistica. Ha detto che voglio salutare anche l'onorevole Roberto Rosso, che anche lui con i vitalizi ha qualcosa che fa e ci racconterà qualcosa. Buongiorno onorevole Rosso. Allora Sergio Rizzo, qual è la contestazione che si può fare all'onorevole Moroni? Io non parlerei di contestazione, è quello che succede di solito quando un provvedimento in Parlamento è sovrano, lo sappiamo tutti, e quindi può succedere che vengano introdotte delle modifiche, si tratta però di vedere le modifiche che effetto hanno sempre. Noi facciamo il nostro lavoro, facciamo i cronisti, non è che esprimiamo giudizi, no? Noi raccontiamo i fatti, e i fatti sono questi, che lì è stato evidentemente introdotto un passaggio, è un passaggio che di fatto vanifica quella disposizione che era stata introdotta dal governo. Il governo che cosa aveva fatto? Aveva messo una tagliola. Ma questo d'accordo con i governatori, attenzione. Sì, perché, sì, con le regioni. Esatto, per cui non si sarebbe potuti andare in pensione con meno di 66 anni e meno di 10 anni di legislatura, anche il cellulare di Sergio Rizzo. Qui è intervenuto il Parlamento. Allora, siccome l'abbiamo recuperata l'onorevole Chiara Moroni, onorevole Moroni, questa modifica effettivamente c'è stata che ha reso vano questo decreto del governo, no? No, cioè, allora io invito il dottor Rizzo a, come dire, verificare le cose prima di scrivere degli articoli che peraltro contribuiscono ad alimentare un clima di caccia alle streghe, perché le cose che lui ha descritto non sono avvenute nelle modalità in cui lui ha descritte. Il testo del governo prevedeva una norma transitoria che diceva che fino all'adeguamento delle regioni, da parte delle regioni, a quanto previsto dal decreto Tremonti del 13 agosto 2011, e cioè il PAS che stabiliva che entro 6 mesi le regioni dovevano modificare il sistema previdenziale dei consiglieri regionali passandolo al contributivo. Fino a quel momento non potevano accedere a una pensione se non i consiglieri che avevano fatto 10 anni di consigliatura e 66 anni. Il medesimo testo del governo, in un inciso, diceva: e in ogni, fatta salva in ogni caso l'abolizione dei vitalizi già disposta dalle regioni. L'analisi di questo testo ha denunciato il fatto che la norma valeva per la sola Valle d'Aosta, perché messe insieme le regioni che già erano passate dal contributivo, attenzione, dalla prossima legislatura, perché questo prevedeva il decreto Tremonti, o che avessero abolito i vitalizi, anche in questo caso uniformandosi per tempi, alla prossima legislatura, non sarebbero state toccate dalla norma. Quello che ha fatto il Parlamento è stato specificare una norma che era confusa, ma che non ha cambiato nulla di quello del contenuto della norma, nulla. Anzi, l'ha resa più severa, prevedendo un taglio dei trasferimenti erariali di pari alla metà del quantitativo della somma dei soldi spesi dalle regioni per le indennità dei consiglieri e della giunta, nel caso non si fossero adeguate alla norma. Sì. E ha introdotto l'uniformità alla regione più virtuosa anche per gli assegni di fine mandato, e ha introdotto la norma, l'unica che può, diciamo così, far sì di non corrispondere il vitalizio a Fiorito, per esempio, sì, cioè che chi è condannato in via definitiva per l'interdizione non lo prenderà. No, ma questo non si, era questo previsto. No, ma certo, ma questo si vedrà previsto, perché non è stato ancora condannato. Lei sta dicendo in pratica che è il governo che ha fatto un decreto raffazzonato, cioè, traduciamolo. Io non voglio dare dei giudizi. Giudizi da lei, dico solo che poi dopodiché si può discutere se va bene, se va male, se è fatto bene. Sta dicendo noi non abbiamo salvato niente, modificato. Allora no, però aspetti, si fermi qui. Sergio Rizzo, cioè io l'ho tradotta così, cioè loro dicono: noi abbiamo fatto un intervento legislativo che ha messo insieme un vecchio decreto Tremonti, un nuovo decreto, ma non abbiamo, noi non vogliamo passare per quelli che hanno salvato i consiglieri regionali, se no qua ci tirano addosso veramente di tutto. Rizzo. Ma io ripeto, noi abbiamo semplicemente raccontato quello che vediamo è che lì c'è una frase che vanifica completamente quella disposizione dei 66 anni e 10 di mandato, fine. Non è che c'è altri discorsi da fare. Lì c'è scritto che quella norma non vale, non si applica per le regioni che hanno abolito i vitalizi, cioè tutte. Dopodiché la regione Lazio non ha abolito il vitalizio, ma non ha ancora fatto la norma del contributivo, e quindi è chiaro che per la regione Lazio quella norma lì non si applica. Basterebbe questo. Poi dopodiché è scritta male, d'accordo, anche il testo del governo non è che fosse così, diciamo, cristallino, perché evidentemente se no non si sarebbero neanche prodotte tutte queste discussioni, queste polemiche. Però insomma, diciamo, la conclusione peraltro è che Sergio, non si applica a nessuno la conclusione è. Sergio, qual è? Che Nicole Minetti, se paga i contributi fino a 5 anni, prende il vitalizio. Fiorito prende il vitalizio, se non, dunque, a meno che allora intanto la regione Lazio li ha aboliti dalla prossima legislatura, come ha ricordato l'onorevole Moroni, no? Quindi per gli eletti che sono attualmente ancora in consiglio regionale, quella disposizione dei 66 anni e 10 non varrebbe. No, a meno che venga condannato, a meno che non ci fosse quell'ultima disposizione, perché la situazione è questa. Lì c'è scritto nel provvedimento che fino a quando non si fa la regolamentazione, nessuno può andare, cioè fino a quando si passa dal vitalizio al contributivo, diciamo così, alla pensione contributiva, nessuno può andare con meno di 66 anni e 10 di contributi. È evidente che se tu hai abolito i vitalizi ma non hai ancora fatto quella norma, e per te quella norma lì non vale perché lo prevede il decreto, tu ci puoi andare con le vecchie regole. È quella fase transitoria. In teoria anche Fiorito, quando avrà compiuto 50 anni, se non intervenisse nessuna norma a modificare questo provvedimento, potrebbe andare. Però su questo l'onorevole Moroni ha detto: abbiamo inserito il fatto che la condanna fa scattare l'eventuale interdizione dei pubblici uffici, noi l'abbiamo inserita in Parlamento e questo fa saltare il vitalizio. Nicole Minetti invece, per esempio, è salva. Allora, voglio ripartire, c'è Sergio Rizzo, l'onorevole Chiara Moroni, ma l'onorevole Roberto Rosso, eccoci qua, del Popolo della Libertà. Lei, onorevole Rosso, aveva fatto un ricorso che poi gli è andato male, credo, alla Camera, sulla questione del suo vitalizio, quando gli hanno modificato dal retributivo al contributivo anche per Non era per questo. Non era per quello. Quella è una cosa normale, cioè è stato fatto la variante da retributivo a contributivo per tutti i vitalizi, ne abbiamo preso atto. Era soltanto stato il fatto che in passato il vitalizio correva a partire dai 50 anni. Sì, ah, sì, l'hanno alzato, è vero, l'hanno alzato l'età, l'hanno alzato l'età. Legislature. Le hanno alzato l'età. Correva dai 50 anni e poi invece correva, oggi corre dai 60. Però le hanno le è andata male, sì. No, non è che le è andata male, siccome questo l'ha respinto il ricorso. Succedeva che mi è arrivata una lettera in cui ci diceva: se tu ti dimetti da parlamentare, ti do il vitalizio subito. Se tu invece non ti dimetti, lo prenderai a 60 anni. Mi sembra un po' strana la cosa. Ho ricorso in sede interna alla Camera perché non è possibile ricorrere a un giudice. Cioè, se eh io sì, però le hanno respinto il ricorso. No, beh sì, se avessi ricorso a un giudice, lei si va a vedere la giurisprudenza costante della Cassazione. Vedrà che per tutti i diritti acquisiti la Cassazione dice che non c'è problema, sempre viene riconosciuta la invariabilità dei diritti acquisiti, cioè per chiunque lavoratore si fosse trovato nella mia condizione avrebbe avuto un giudice, alla Camera. L'onorevole consolo, che evidentemente voleva tenere fede a quello che aveva fatto il presidente della Camera Fini, ha mantenuto. Senta, ma lei è d'accordo con quello che propone Giuliano Amato? Lo ha fatto in un'intervista a 7, che ha detto: e che fa se noi mettessimo i mandati, due mandati, come vuole, che ne so, Renzi? E che fa uno che entra in Parlamento a 30 anni, poi esce a 40, l'esodato di Stato prima di arrivare alla pensione? Secondo me, quello Amato, quello Renzi. Cioè, il fatto vero è che è stupido mettere due mandati di fissi. Cioè, in realtà il problema dei due mandati nasce in America sul problema dell'esecutivo, e nasce per i presidenti degli Stati Uniti, per i governatori, per i sindaci. Infatti è stato recepito in Italia per i sindaci e presidenti di provincia, sbagliando non è stato recepito per i presidenti di regione, ad esempio, ma è sempre stato recepito per chi ha un potere esecutivo, chi ha un potere molto forte di condizionamento alla pubblica opinione. Invece in Parlamento si può stare a vita. Viceversa, se lei fa il conto, ad esempio Ted Kennedy, il capo dei liberal americani, è stato in Parlamento quasi 35 anni. Se ne cita sempre uno, per dire che sono molto pochi. Beh, sono molto pochi parlamentari che sono stati alla Camera, ad esempio, 30 anni. Beh, insomma. In Italia lei fa il conto sulle dita della mano. 20, 25, no, 15. No, guarda, c'è Pisano, c'è D'Alema che sta a 25 anni. Sono pochissime persone. Perché proprio perché c'è una selezione naturale molto molto forte nell'ambito del Parlamento, che fa sì che molto poche persone rimangano nell'ambito del Parlamento 25-30 anni. E questo è perché c'è una selezione molto forte, e d'altronde è giusto che un parlamentare rimanga lì fin tanto che la gente lo vuole. Il problema vero è la legge porcata che c'è oggi in Italia. Io voto contro, pubblicamente, anche contro l'indicazione del mio partito. Ma oggi, come io ho scritto su Twitter, inizia la 92esima settimana decisiva per cambiare la legge elettorale. No, ma non mi porti sulla legge elettorale, voglio tornare un attimo dall'onorevole Moroni. Che cosa non le piace di quello che ha detto Rizzo? Cioè, Rizzo dice: noi sarà stato scritto male il decreto, cioè noi registriamo che con questa frase in più succede che viene vanificato un po' il tutto. Magari avranno sbagliato a scrivere il decreto al governo, però il dato di fatto è questo. No, ma guardi, il problema è che il dottoretto dice delle cose non vere, e non si può più accettare che vengano accettate come verità delle cose che non lo sono. Dopodiché ho detto, possiamo discutere se il decreto va bene o male, ma siccome il dottor Rizzo sostiene che il Parlamento ha modificato la norma e l'ha modificata in favore di abbassare i requisiti, questo non è vero. Ma mi scusi, onorevole Moroni, le faccio questa domanda. Il sottosegretario Polillo, che qui da me 20 giorni fa dice: con questo decreto nessuno prende il vitalizio, mentre ora si scopre che lo prendono, cos'è, ha preso un granchio? Bene la norma, ecco, non aveva presentato letto, no. Il governo vede che allora, però, dice che il decreto era scritto male io non dico che il decreto era scritto male, e a parte che potrei anche dirlo, ma era scritto malissimo per tante altre cose. In questo caso non è che era scritto male, faceva una cosa diversa da quella che il governo ha propagandato. Sì, cioè hanno detto se hanno sbagliato a scriverlo. Vabbè, è abbastanza incredibile, perché è un decreto soprannominato antifiorito, antivitalizio, e non è servito. Io penso che fare le norme favore o contro a persona, no, ma quello era sui giornali, non so, Sergio Rizzo sui giornali è stata no, vabbè, ma per dire l'alimenta. Sergio, non l'avrebbero mai fatto se non se non fosse successo quello che è successo infatti, diciamo la verità, no? Però ci dice Chiara Moroni che è stato evidentemente scritto male. Polillo ha sbagliato a dire che quel decreto serviva a quello. Allora, io ripeto, può essere stato anche scritto male, ma qual è la conseguenza, l'esito finale? L'esito finale è molto semplice, quel decreto lì, il 66 più 10, non si applica a nessuno. Questo sì, questo il risultato è, sì, è questo. È il risultato, non è che c'è tanto da girarci intorno, dopodiché di chi sarà la responsabilità? L'onorevole Moroni dice che è del governo, probabilmente avrà anche ragione. Fatto sta che come è uscito dal Parlamento quel decreto lì non si applica a nessuno. Questo è il dato di fatto più sconfortante se per chi voleva questi effetti. Comunque io vi ringrazio, cercheremo di capire puntata bis, a capire allora se questi vitalizi arrivano oppure no, per chi è condannato, per Nicol Minetti e tutti gli altri, vengono citati Fiorito e Nicol Minetti perché sono due nomi che sono finiti sui giornali. Vi ringrazio a tutti, con Miriam Lucchetti, Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè, vi diamo l'appuntamento a domani, seguiteci su Twitter, Alino Milan, quello sono io, 24 mattino la trasmissione, a domani.